Radio 24 Reportage. Gente dell'altro mondo di Paolo Piacenza. La prima impressione è quella che conta, si dice. E la prima impressione favorita da una giornata tersa di sole e vento dal nitore delle architetture olimpiche del Palaiso Zaki, dai mille colori della pelle e dei vestiti tradizionali, ti fa capire che ti trovi davanti a una cosa vera. Torino, giovedì 21 ottobre 2010, ore 14, atrio del Palazzo Olimpico del Ghiaccio, di fianco allo stadio dove giocano Toro e Juve, dove il mondo salutò la 20ª Olimpiade invernale. In colonnate in file ordinate, pazienti e indaffarate, insieme centinaia di persone da 160 paesi del mondo sono lì ad aspettare il loro turno per registrarsi, ritirare il pasta delegato da osservatore ed entrare sotto le volte disegnate da Hirata Isozaki per la cerimonia di apertura della 4ª edizione di Terra Madre, il meeting internazionale delle comunità rurali, forse la follia meglio riuscita a quel pragmatico visionario che è Carlin Petrini. Kenya e Nairobi. I'm from the United States, from Montana. I'm from Indonesia, from Bali. I'm from Swedish Sapmi. From the north Sweden. Sénégal, moi je venais de Sénégal, je venais de la région de Ziguinchor, dans le département de Bindiona. Dal 2004, ogni due anni in abbinamento al Salone del Gusto Slow Food, l'associazione fondata e presieduta da Carlo Petrini, organizza questo incontro tra piccoli produttori, contadini, allevatori e pescatori, ristoratori tradizionali, studenti, insegnanti, giornalisti e studiosi, uniti dal comune operare intorno al cibo e dal rapporto quotidiano con la terra, gli animali, l'acqua. Un evento sostenuto da una rete informale, dal collegamento tra realtà distanti migliaia e migliaia di chilometri e che ha l'obiettivo di lanciare dal basso una sfida al modello economico dominante, l'idea di uno sviluppo diverso, basato sull'alleanza tra piccoli produttori e consumatori, basato sul cibo buono, pulito e giusto, basato sulla difesa delle tradizioni e delle biodiversità. Nel grande atrio del Palaiso Zaki questi concetti sono innanzitutto persone, storie insomma. Vengo de exponente de la Murta, io de Chile. Bueno, tener más, entradas de trabajo. Vengo dal Cile, mi spiega una giovane produttrice di frutta che per la prima volta è a Terra Madre. Mi aspetto di stabilire contatti, spiega, di scambiare esperienze con chi viene dagli altri paesi per fare vedere quello che so fare e imparare cose nuove. Yeah, I work on a urban farm in the city where I live. The city's named Missoula. Un ventenne americano dal Montana mi racconta invece che lui ha messo su una urban farm, una fattoria urbana a Missoula, la città che ospita l'Università dello Stato. Anche lui è qui per la prima volta, si dice eccitato. Spera di scoprire cosa fanno i suoi colleghi in tutto il mondo per un'agricoltura sostenibile. Fortunately, this is my third time because now I bring my other friends. Questo produttore di farine alimentari da patate dolci viene da Bali, dall'Indonesia, ed è invece qui per la terza volta. Si dice contento perché Terra Madre valorizza ciò che lui fa in Indonesia ed è convinto che il dialogo sia la migliore strategia per migliorare la produzione. L'altra faccia di Terra Madre sono i volontari e le famiglie ospitanti. I volontari sono 650 circa e secondo quanto mi dice Piero, addetto al ritiro bagagli, sono ancora molti quelli che sentono lo spirito olimpico. Sì, ma qui dalle Olimpiadi in poi sono nate un sacco di associazioni, quindi non hanno mai problemi a trovare volontari, anzi me lasciano a casa. Sotto al grande atrio ad aspettare con i cartelli in mano i loro ospiti c'è un gruppo di torinesi. Una signora rumena, la volta scorsa era una chef statunitense con cui abbiamo poi tenuto anche i contatti perché ci ha mandato dei libro delle sue ricette. A noi interessa anche conoscere culture diverse dalla nostra. Seconda volta la medesima ragazza, ingegnere agronomo di una piccola comunità del Messico, si è creata una bella amicizia pur essendo molto più giovane di me. Poi per i 6.400 partecipanti da 161 paesi, Italia compresa, tra cui 4.432 delegati suddivisi in 1.557 comunità del cibo, arriva il momento di entrare e comincia una festa semplice e grandiosa insieme. Musica per i cinque continenti, le bandiere di tutte le nazioni presenti, il saluto del sindaco di Torino Sergio Chiamparino, quello del segretario della Fondazione Terra Madre Paolo Di Croce. Di Croce spiega che al centro del meeting 2010 ci sono le diversità culturali e linguistiche, dunque la salvaguardia delle etnie e delle lingue autoctone. La loro voce è affidata a cinque delegati delle popolazioni indigene. Nella Il primo a parlare è l'etiope Malebo Machamaza di lingua game, quindi per le Americhe tocca Adolfo Timotio Vera Mirim, leader del popolo Guarani Mbia, poi per l'Asia ad Albina Morilova dei nativi Kamchadal della Kamchatka, quindi Hol Hyoan Sikku, delegato europeo dell'etnia scandinava Sami, e infine Onti Beryl Van Oplo, aborigena australiana di Darlington. Da tutti viene una testimonianza sulla necessità di legare la salvaguardia di culture antichissime con quella delle tradizioni agricole e di allevamento. Ma il cuore politico del meeting è il discorso del presidente di Slow Food, Carlo Petrini, che scommette proprio sui depositari dei saperi tradizionali. Nei saperi tradizionali c'è l'empiria, la buona pratica di secoli, il rispetto per la terra, il rispetto per la natura, che sono i principali depositari di questi saperi tradizionali. Gli indigeni, i contadini, le donne e gli anziani. Petrini cita il filosofo francese Edgar Morin dicendo che tutto deve cominciare e tutto è già ricominciato. Si rivolge ai giovani e propone una trasformazione da realizzare attraverso tre atteggiamenti mentali: valorizzare la diversità, rafforzare la reciprocità tipica delle civiltà rurali basate sul dono e sul controdono, puntare sul dialogo. E ricorda che proprio questo è il senso di Terra Madre. Terra Madre è solo ed esclusivamente il valore dell'incontro. Non andiamo a cercare altro. Solo incontrarci. Chi pensa che Terra Madre sia la toppa eco e solidale sul vestito radical chic di un salone dei golosi deve farsi un giro a Torino in questi giorni. Perché se è vero per certi versi che il salone del gusto cui Terra Madre è abbinata dal 2004 resta una grande macchina di marketing alimentare, una selva di gusti e piacevolezze per piccoli e grandi gaudenti, tuttavia chi passa dal Lingotto, dove i due eventi si svolgono in piena sintonia, prende coscienza che ormai è Terra Madre a dare il tono, il senso, la linea a tutto l'insieme. Venerdì 22 ottobre Terra Madre sbarca all'Oval. Il legame con il salone è immediato. Dal Lingotto si fa una brevissima passeggiata tra i banchi dedicati ai cibi di strada, poi sotto la volta del Palazzo della Velocità su ghiaccio appare l'incrocio delle razze, l'incontro di cui parla Petrini. I laboratori del gusto, il mercato spontaneo dei produttori e per la prima volta 8 laboratori sulle politiche alimentari e la sostenibilità. Al centro del confronto una bozza di documento preparata da una scuola online guidata dall'Università di Pollenzo, che viene discussa dai delegati e che poi sarà riordinata e sottoposta ai leader politici, come spiega Cinzia Scaffidi, responsabile del centro studi Slow Food. Un documento che vuole raccomandare a chi si occupa di politica che il cibo è al centro di una serie di stanze che riguardano l'ambiente, la biodiversità, le relazioni, le conoscenze tradizionali, la salute, l'economia, i diritti, e che quindi non è possibile rimandare oltre il momento di una riflessione su quelle che devono essere politiche alimentari. Oggi, dice Scaffidi, grazie a Terra Madre il focus di tutta la manifestazione Slow Food si è spostato più sui produttori che sui soli prodotti. La rete si è diffusa, si organizzano eventi nazionali nell'intervallo biennale tra gli appuntamenti torinesi, e così è cresciuta la consapevolezza anche tra i partecipanti, anche tra i consumatori. Uno spiraglio si intravede, ed è uno spiraglio molto consolante, nella grande disponibilità di consumatori e produttori a ragionare sui loro gesti, i loro gesti di consumo, i loro gesti di scelta, a capire chiaramente che se, come dice Wendell Berry, mangiare un atto agricolo e, come aggiunge Petrini, coltivare un atto gastronomico, ecco, siamo arrivati, credo, alla chiara coscienza del fatto che poi acquistare del cibo è un atto politico. Tra i banchetti del mercato spontaneo c'è Frederick del Malawi. Mi mostrò orgoglioso un irrigatore spray da lui costruito con una bottiglia di plastica, 3 batterie e una rotellina che rompe la goccia. E poi c'è Erika Guevara del Salvador. Abbiamo portato miele e collane di semi, mi dice, siamo qui per la seconda volta. Poi aggiunge che il discorso di Petrini le è piaciuto molto, che le ha dato il senso di una trasformazione possibile, una trasformazione in mano ai giovani, alle donne. Una trasformazione solidale, dice, frutto dell'incontro con le idee di tutti. Però serve davvero un cambiamento, aggiunge. È urgente un cambio nel nostro modo di vita. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.